Compagni tutti lui e mala scova, tu senza sorte Dio, senza fortuna, la che da pulla, la che da pulla. Tu alle scarpe non ci tieni sova, e io compagno manco vita cune, la che da pulla, la che da pulla. Tu alla casa non tieni cassarove, ed io compagno manco una fressura, la che da pulla, la che da pulla. U porta voglio tuoi usce cavuve, lo mio senza usciare vude sude, la che da pulla, la che da pulla. Caiuto te può dare una formica, quando te trovi sopra nu per rupe, la chita pulla, la chita pulla.